Container. L'approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato. Semplificazione. Se volessimo riassumere in una sola parola il decreto sulla portualità italiana e la logistica approvato lo scorso 21 gennaio dal Consiglio dei Ministri, sarebbe semplificazione la parola giusta. La riforma dei porti punta infatti alla razionalizzazione e alla riorganizzazione dell'intero assetto portuale italiano per creare un sistema mare efficiente e competitivo, capace di favorire la crescita dei traffici internazionali. Tre i punti fondamentali della riforma della portualità approvata dal Consiglio dei Ministri qualche giorno fa. Razionalizzazione delle autorità portuali, che da 24 passano a 15 con un coordinamento unico centrale. Snellimento di questi organismi, con un taglio considerevole dei componenti. Creazione dello sportello doganale unico e dei controlli, e dello sportello amministrativo unico, per velocizzare i tempi di sdoganamento e tutte le questioni amministrative. Il decreto si unisce ad altre azioni in corso per rilanciare questo settore strategico dell'economia nazionale, come i 200 milioni di incentivi per il trasporto merci via ferrovia e via mare, previsti nella legge di stabilità 2016. Salve a tutti da Massimo De Donato e benvenuti a questo nuovo appuntamento con Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. Come avete ascoltato dalla nostra scheda iniziale, oggi parleremo di porti e di trasporti marittimi, una delle risorse più importanti per il nostro paese. Dopo una lunga fase di gestazione, la riforma della portualità italiana ha visto la luce con un provvedimento del governo che ne ha definito gli aspetti essenziali in un'ottica di semplificazione delle procedure di razionalizzazione. Delle ripercussioni di questo provvedimento sul mondo italiano dei trasporti parliamo oggi in compagnia dei nostri ospiti Cinzia Franchini, presidente di FITA CNA, e Pasqualino Monti, presidente di Assoporti. Monti, cominciamo da lei. Cosa cambierà con questa riforma nei porti italiani? Noi abbiamo salutato come associazione con soddisfazione questo primo atto, lo consideriamo un primo atto sulla strada di una riforma portuale che è essenziale oggi più che mai per il rilancio del sistema nazionale dei porti e della logistica. Questa è una riforma che secondo noi potrà nel tempo consentire al sistema paese di sfruttare fino in fondo le potenzialità e soprattutto la strategicità di questo comparto. Siamo usciti, e dico finalmente, dall'ottica di una riduzione con un tratto di penna del numero delle autorità portuali, ma lo abbiamo fatto invece con una norma che tende a razionalizzare la risorsa porto nel nostro paese e finalmente l'associa alla parola logistica, quindi si parla di portualità e di logistica. Io dico che essenzialmente siamo diventati, diciamo così, abbiamo creato come innovazione una nuova funzione a livello centrale, che è quella di coordinare la spesa in infrastrutture marittime nel nostro paese. Quindi usciamo dai localismi e dai campanilismi, ma affrontiamo finalmente con il tema del piano industriale della portualità a livello nazionale, affrontiamo il problema del sistema paese e non del singolo porto. Ecco, e un poi sistema nel quale, chiedo scusa, c'è bisogno di integrare in qualche modo tutte le varie modalità, soprattutto quelle terrestri che insieme con quella marittima sono essenziali per far muovere il paese. Ne parliamo con Cinzia Franchini, presidente di FITA CNA, una delle associazioni di categoria dell'autotrasporto più attente agli sviluppi delle autostrade del mare. Secondo lei esiste questa integrazione o forse abbiamo perso qualcosa rispetto al passato? Devo innanzitutto dire che anche noi accogliamo sfavorevolmente questa riforma, la stavamo aspettando davvero da tanti anni, per cui finalmente è arrivata e questo ci pare già un segnale positivo. Certo è che il mondo dell'autotrasporto e della logistica sono elementi essenziali per quello che interessa tutto il sistema portuale, per cui noi ci auguriamo che anche nell'ambito di questa riforma si possa comunque avere una correlazione relazione molto stretta tra i vari soggetti che poi vanno a comporre l'intera filiera. Lo diciamo perché guardando alla riorganizzazione, a quanto emerso dal Consiglio dei Ministri, ci pare, però usiamo il condizionale, forse è necessario capire meglio e di più nei prossimi giorni, ci pare al momento che l'autotrasporto non abbia un ruolo ben presente ed evidenziato come lo era per il passato. Riteniamo che si debba comunque coinvolgere appieno quello che è il mondo dell'autotrasporto e anche la logistica. Monti, a proposito di questo e a proposito anche dell'integrazione con il resto della filiera, un altro aspetto del provvedimento del governo riguarda la creazione di uno sportello doganale unico e dei controlli e di uno sportello amministrativo unico. Ma guardi, si risolve un problema che non è certamente materiale, è immateriale. Ma che è diventato un problema insostenibile, era un problema insostenibile per il nostro paese, ossia la burocrazia. Se pensiamo come viene sdoganata oggi una merce nel nostro paese, capiamo che servono 17 timbri di 17 diverse istituzioni e amministrazioni che concorrono, diciamo così, poi tutte quante ad un'unica funzione. Finalmente, con la creazione dello sportello unico doganale, si ha un unico interlocutore che è responsabile dell'operazione e sdoganamento delle merci, che è l'Agenzia delle Dogane, che poi al suo interno saprà far sintesi con le altre amministrazioni che rimangono e che concorrono comunque allo sdoganamento in sicurezza delle merci. Io penso che questo, insieme con lo sportello unico amministrativo, lo sportello unico di controllo, rappresentino una norma immateriale certamente molto importante per abbattere la burocrazia nei nostri porti e consentire uno sdoganamento più veloce delle merci. Dottoressa Franchini, il tema delle autostrade del mare è un tema molto caro al mondo dell'autotrasporto, del resto questo decreto si unisce ad altre azioni in corso per rilanciare questo settore strategico dell'economia nazionale, penso ad esempio ai 200 milioni di incentivo per il trasporto merci via ferrovia e via mare. Saranno sufficienti tutti questi provvedimenti per favorire sempre di più l'integrazione di queste modalità? Sicuramente sono un passo importante. Ricordiamo che tutto il mondo dell'autotrasporto ha voluto e favorito appunto il fatto che arrivassero risorse importanti sia per favorire il mare bonus, quindi l'utilizzo delle autostrade del mare, sia il ferro bonus. Riteniamo che siano provvedimenti davvero di fondamentale importanza in un contesto che è in continua evoluzione, dove riteniamo che queste modalità vadano ulteriormente favorite. Si è parlato tanto anche nei giorni scorsi di inquinamento, qualità dell'aria, siamo stati anche additati come responsabili, come purtroppo e magari anche non correttamente veniamo additati. Queste, anche l'utilizzo di modalità alternative, vanno in quella direzione. Ricordiamo che l'autotrasporto si è speso molto per questi provvedimenti. Quale potrebbe essere il ruolo delle associazioni di categoria dell'autotrasporto per far sì che questi provvedimenti funzionino sempre meglio? Intanto noi dobbiamo verificare che e accertarci, e qui credo che le associazioni di categoria abbiano un ruolo di fondamentale importanza, che le risorse vadano a buon fine e arrivino a quelle imprese che sul mercato possono operare correttamente. Lo ricordo perché questo rimane sempre un tema molto molto importante, abbiamo visto distorsioni che non ci sono piaciute nel passato. Poi credo che noi dobbiamo essere delle sentinelle attente per chiedere e fare prestare attenzione a quello che le imprese ci stanno chiedendo. Sono provvedimenti che per alcuni anni, lei ricorderà molto bene, purtroppo non sono stati finanziati e le imprese non ne hanno potuto beneficiare. Quindi dopo alcuni anni il mare bonus, per esempio, ritorna e quindi ci auguriamo che abbia una ricaduta per anche qua, poi alla fine non solo per le imprese dell'autotrasporto, ma per l'intera filiera. Monti, siamo in conclusione. Vogliamo ricordare quali sono i prossimi passaggi del provvedimento governativo affinché diventi pienamente operativo e diventi una realtà anche per i porti italiani? Sì, soprattutto ci auguriamo che queste ulteriori procedure amministrativo-burocratiche avvengano nel più breve tempo possibile. Infatti. Ma so che c'è un passaggio al Consiglio di Stato per 45 giorni, una volta tecnicamente si dice tra virgolette sbollinato dal Consiglio di Stato, arriverà alle commissioni Camera e Senato dei Trasporti per un parere delle commissioni parlamentari non vincolanti e dopodiché sarà pienamente legge. Bene, termina qui anche questa puntata di Container. La